Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Arrivano e vita e ti sono arrivato un dopo con le mie forze e non con l'aiuto del mio stato. Non voglio indulgere oltre su quello che è ormai un messaggio che è entrato nella coscienza comune da un paio di giorni, è l'ultimo appello di DJ Fabo. Vorrei riflettere sulla modalità attraverso cui è stato trasmesso e su una maniera che è totalmente nuova di trasmettere e condividere il proprio dolore, la propria infermità anche con persone che non si conoscono. Questo è un messaggio che è partito da Twitter, che era composto in una serie di elementi forti, elementi emotivamente impossibili a essere trascurati, per cui oggi si è aperto un dibattito politico sul fine vita e anche in maniera diffusa, in maniera condivisa, le prime pagine di tutti i giornali di questo parlano, l'opinione generale delle persone di questo parla, discetta, condivide, esprime pareri, non sempre tutti pertinenti, non sempre tutti condivisibili, ma nei social comunque il trend prevalente è proprio quello legato a questa vicenda. Significa che qualcosa è accaduto nell'evoluzione digitale dell'umanità, evoluzione digitale che molte volte presenta delle lacune, presenta dei punti deboli, ma in questo caso la domanda che oggi faccio al mio pubblico è: vi state rendendo conto che oggi, quando noi abbiamo un problema di salute, un problema di tipo fisico, e quelle tipiche cose che una volta rimanevano chiuse strettamente nella sfera intima degli affetti familiari, la prima tentazione è di condividerla attraverso i social network. Lo fanno, guardate, personaggi noti, personaggi la cui compattezza fisica fa parte del loro bagaglio professionale. Guardate quanto è costato comunque in campagna elettorale a Hillary Clinton il fatto che si paventassero dei problemi di salute, che qualche volta avesse barcollato. In quel caso era qualcosa da tenere nascosto, da non rivelare che un aspirante presidente degli Stati Uniti avesse dei problemi di salute. Ma allo stesso tempo molti fanno di necessità virtù, trasformano qualcosa che in una lettura tradizionale, convenzionale, è qualcosa da tenere come minimo nell'area del riservo, in qualcosa da ostentare. Ed ecco che Michael Bublé parla del figlio con il tumore, ecco che Angelina Jolie prima racconta al mondo della sua doppia mastectomia preventiva, poi oggi parla di un altro trapianto che deve fare per un altro problema di salute. Ecco che altri personaggi, come una delle eroine della famosa serie Beverly Hills 90210, mostra le sue foto di lei con i capelli rasati a zero per la chemioterapia che sta affrontando per un tumore. Kim Kardashian, di cui noi siamo abituati a vedere straripanti le caratteristiche callipige, parla della sua psoriasi che ha da quando 6 anni, una cosa che non, Charlie Sheen, che è sieropositivo, ne racconta, lo raccontano i suoi partner, ma c'è un'infinità comunque di divi dello spettacolo che raccontano in rete i loro problemi, ma non soltanto, anche persone comuni, anche bambini, anche esseri umani che non avrebbero altrimenti altra possibilità di rendere pubblica la loro vicenda biografica, portano in rete il loro dramma, le loro foto, le loro immagini strazianti. Mi faceva vedere Fabrizio Intonti pochi istanti fa una sequenza di foto di una sua conoscenza attraverso Facebook, conoscenza soltanto di Facebook, non sa chi ella sia, una di quelle persone che abbiamo, ci trasciniamo nei nostri profili, tutta una serie di foto serene, tranquille. A un certo punto si vede una foto di una mano che è improvvisamente paralizzata perché ha avuto un problema grave, dice: da oggi questa mano è mia ma non è più mia, non la sento più, e comincia a raccontare la foto della sua paresi progressiva, una ragazza che fino al giorno prima metteva sue foto quotidiane. Beh, come voi partecipate sia attivamente che passivamente a questa nuova forma di elaborare un dolore, di elaborare una malattia, di elaborare un problema, condividendola con persone anche sconosciute. Il gesto di DJ Fabio è stato un gesto politico, un gesto determinato, un gesto studiato, un gesto artisticamente corroborato dal fatto che lui fosse un DJ. Anche i suoi tatuaggi avevano un valore in quel messaggio. Altre persone che non hanno il dono della celebrità e non hanno alcuna voglia di dare un significato politico, comunque condividono dei momenti strazianti alla loro vita. 800 24 00 24, tra un istante. Melog, cronache meridiane. A 3 anni, già costretto a combattere contro un cancro al fegato, ma almeno a Natale il piccolo Noah potrà uscire dall'ospedale e stare insieme a sua mamma e suo papà, Michael Bublé. Metterò da parte la mia carriera per un po' di tempo, ora voglio stare solo insieme a mio figlio, aveva annunciato su Facebook il cantante canadese a inizio novembre. Il motivo? Al suo primogenito, nato nel 2013, era stato diagnosticato un tumore. Da lì, il ricovero in ospedale a Los Angeles, un primo ciclo di chemioterapia e il rischio di doversi sottoporre a un intervento chirurgico a breve per togliere la massa. Un notissimo cantante canadese annuncia su Facebook la malattia grave del proprio bambino, la racconta e diventa una narrazione. Quanto questo serva a lui, quanto questo serva a lui come essere umano, individuo, per elaborare qualcosa che è difficilmente spiegabile a se stessi, quanto possa in qualche maniera anche corroborare la sua immagine, perché c'è anche questo aspetto, un'immagine pubblica si avvale comunque di questo. Non voglio dire sia uno stratagemma, non voglio dire sia un sistema per creare attenzione su di sé, questa è una lettura moralistica di tutti quelli che considerano un limite, quasi una vanagloria, quasi un atteggiamento da censurare, il desiderio di autorappresentarsi. Però va analizzato anche questo fenomeno. Andrea Barchesi, buongiorno. Buongiorno. Allora, Andrea Barchesi, ricordo, è fondatore di Reputation Manager, che è una società leader in Italia che si occupa appunto di tutelare e gestire la reputazione online e l'identità digitale di aziende, organizzazioni, individui, insomma, quello che accade in rete di voi o della vostra azienda in qualche maniera può essere seguito, può essere organizzato. È autore di un libro di cui abbiamo parlato in passato, La tentazione dell'oblio, vuoi subire o costruire la tua identità digitale, edizione Franco Angeli. Oggi è delicato, io la chiamo Barchesi per parlare esattamente del contrario di quella che è, diciamo, la sua ragione aziendale. Quando accade nella vita, nell'avventura esistenziale di un essere umano, anche noto, anche comunque con delle responsabilità alla propria immagine, un fatto legato alla malattia, al dolore, al disfacimento, al lutto familiare, ecco, in che maniera oggi sta concretizzandosi una tendenza di gestire anche questo evento? Sostanzialmente noi ci rendiamo conto negli anni, lavorando proprio con tutte le conversazioni dei soggetti, capendo quindi cosa dicono esattamente le persone, che è cambiato lo spirito, è cambiato un po' lo stato d'animo. Che cosa significa questo? Che si è polverizzata la barriera tra privato e pubblico. Quello che noi stiamo osservando in realtà sta avvenendo da un po' di tempo, già dal caso Stamina venivano pubblicate foto di bambini malati e così via, a testimonianza. Il punto è che era molto strumentale. Allora, io vorrei evitare questa mattina di fare letture di tipo etico e morale, non mi interessa questa mattina, voglio freddamente analizzare il fenomeno come un fenomeno nuovo. Stamina, è vero, sì, le famiglie piangenti, le bambine malate, sembrava che soltanto il taumaturgo Vannoni, che poi si è rivelato comunque essere un lestofante da questo punto di vista, le avrebbe salvate. Poi Vannoni ha smesso di farlo perché non è stato più possibile applicare la sua terapia, ma in quel caso era una rappresentazione concreta e crudissima di qualcosa di indicibile altrimenti attraverso strumenti normali, una bambina in fin di vita sofferente. Assolutamente, in questi casi invece c'è, essendo caduta la barriera tra pubblico e privato, chiunque, come racconta una natalità, un fatto positivo e così via, è ormai portato naturalmente anche a cominciare a condividere anche i momenti di debolezza, e questo ha anche un effetto catartico a volte, per il semplice fatto che condividendo a volte il dolore, sentendo la vicinanza di questa collettività, che per quanto sia digitale, astratta, viene percepita come reale, aiuta a volte a sentirsi meno soli. Le posso fare un esempio al limite, Marchesi? Poi se l'accetta bene, se no amici come prima. Venisse a lei un rappresentante importante di una grande azienda, di un grande marchio, e gli dicesse: guardi, io ho scoperto di avere un tumore che mi dà questa speranza di vita molto limitata. Come lo gestisco attraverso i social? Lei che consiglio darebbe, spassionatamente? Ma deve essere se stesso. Deve essere se stesso, nel senso che se sente di dover raccontare, se sente di dover mandare un messaggio, di rendere partecipi le persone, se ne ha bisogno, gli consiglierei di farlo. In questo caso non c'è una strategia vincente, nel senso, come dicevo prima, è più l'effetto di un crollo tra pubbliche e private, quindi ognuno, soprattutto nei momenti di maggior difficoltà, cerca di raccogliere le forze come può. Però in molti casi può avere un valore sociale. Io faccio il mio esempio personale, che ormai è stranoto, molti mi accusano: te usi l'immagine di tuo figlio autistico per renderti visibile. In realtà lo faccio perché cerco di coltivare e far crescere una coscienza nei confronti della neurodiversità. Una persona famosa e nota che passa attraverso una malattia, una fase invalidante, può prendere l'occasione per aprire magari una campagna sociale. Il caso appunto del DJ l'ha fatto con un significato politico forte. Lui poteva morire in solitudine senza dirlo a nessuno, assieme ai suoi amici e ai suoi affetti. Ha pensato bene che la sua morte avesse un senso. È una sorta di esempio che ha riaperto un dibattito. Sì, assolutamente, non solo, ha anche dimostrato che questi nuovi canali si prestano in modo estremamente efficace a condividere. La lotta attraverso i media tradizionali, come ci hanno dimostrato le precedenti battaglie, sono risultate, tra virgolette, un po' meno, diciamo, forti, un po' meno presenti nella vita. In questo dato c'è una partecipazione collettiva, quindi i social network hanno aperto una nuova frontiera di questo tipo, di educazione, di partecipazione, di lotta, anche politica. Sentiamo Marco, intanto ricordo il numero 800240024, quello che vorrei sapere dai nostri ascoltatori è se loro hanno avuto mai la tentazione, hanno avuto mai occasione di condividere degli aspetti problematici della loro vita, non soltanto le occasioni felici, non soltanto le vacanze, non soltanto il cocktail di frutta in mano, non soltanto i bei paesaggi, le belle donne, i begli uomini e via dicendo, ma anche nei momenti molto drammatici, ne hanno avuto giovamento, ne hanno tratto qualche insegnamento e con chi l'hanno condiviso, attraverso quale modalità. Marco, buongiorno. Buongiorno. Nulla, io ho deciso di intervenire perché mia madre è morta da in seguito a leucemia, che l'ha impegnata in una chimioterapia per 2 anni. E niente, io volevo dire una cosa, cioè prima di rispondere alla tua domanda, rispondo prima alla tua domanda e dicevo che a me è capitato sì di condividere dei momenti preziosi che io ho passato con mia madre, no? Che quei 2 anni di chemioterapia che mia madre ha scelto di fare, che non era obbligata a fare, no? Ma si è regalata e ha regalato a noi 2 anni di vita splendidi, seppur nel dolore, nella fatica. Però io ho sì scelto di condividere con degli amici magari dei momenti, ma non come voi dicevate prima, come mi devo comportare davanti a questo dolore, devo condividerlo o no, era una conseguenza, cioè io provavo questo dolore, traevo degli insegnamenti e quindi mi nasceva spontaneo la volontà di condividerli con qualcuno, no? Ma proprio perché erano di valore. Il dolore in sé, spettacolarizzato sui social, non ha alcun senso, è fine a se stesso, poi si vede, cioè lo si vede quando una cosa nasce fine a se stessa. E poi ci tenevo anche a dire che, insomma, questa malattia di mia madre, questo dolore che lei ha scelto di percorrere, è stato un regalo per noi e per lei stessa, no? Quindi quando affermiamo con semplicità che la scelta di DJ Favo era totalmente corretta, totalmente libera, dovremmo prima pensare a chi magari vuole dare la possibilità, magari anche un familiare, che guardando un suo fratello, sua madre soffrire, dice: ma io vedo una possibilità per te lo stesso nel dolore invece che la morte, no? Niente, tutto questo, cioè solo questo volevo dire. Mi sembra che lei faccia una distinzione rispetto al fatto di cronaca da cui siamo partiti e la sua esperienza personale. Dice: per me la mia vicenda familiare è stata attraversata da questa esperienza forte, esperienza cruda, e mi sono sentito di condividerla senza una precisa predeterminazione. Ma sì, ma è logico, lei ha 20, 21 anni, per lei avere una condivisione social equivale a raccontarlo agli amici della porta accanto. È normale che per lei questa dimensione diventi naturale. Sul fatto di DJ Fabo, siccome c'è dietro comunque due fronti opposti di opinione, lei ha espresso la sua opinione. Secondo lei, mi sembra aver capito, se è un'opinione assolutamente, ognuno rispetti l'opinione altrui, secondo lei la scelta non è sempre una scelta di sopprimere la propria vita, questo mi sembra che sia il suo punto di vista. Stiamo Carla, veloce. Carla, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, intervengo per dire questo, che la malattia stessa porta comunque a essere soli, cioè una solitudine. Io stessa sono stata partecipe di questa solitudine di una signora anziana ammalata in un letto di ospedale. Familiari zero, non c'erano, e diciamo così, nel poco che ho potuto sono riuscita, e sono contenta di essere riuscita a tenerla per mano. Poi alla fine cioè, ho capito che comunque sono un po' emozionata, che praticamente ho fatto bene a fare questo gesto. Sì, questo però rientra diciamo nella tradizionale pietas, occuparsi di un anziano, di un malato. Rimaniamo comunque soli. Ma secondo lei, vediamo fare uno sforzo in più, Carla, la dimensione social, cioè questa è quella, lei l'ha fatto e lo sappiamo adesso perché ce lo racconta. Sì, qual è l'aspetto nuovo rispetto a quello che dice? È che più io urlo e più più il mio dolore è alto, è grande, e più io urlo. Quindi i social servono anche per questo, secondo me, perché io mi metto su Facebook o Twitter, quello che è, per dirlo a tutti, perché voglio comunque che magari qualcuno in più mi tenga per mano, perché sono sola nel mio dolore, nel mio destino, in tutto quello che, insomma, si può capire che quando non si sta anche bene, una persona vicino ci aiuta comunque. Quindi lei, adesso ho capito, Carla, lei dice la dimensione social altro non è che un amplificatore rispetto a quegli ammortizzatori emotivi che noi avevamo, comunque abbiamo ancora nei rapporti umani, i residui. Lei si è occupata della signora anziana perché è una persona di buon cuore, altrimenti sarebbe stata sola. Intorno a noi abbiamo ormai più persone che si muovono attraverso la dimensione social rispetto che la dimensione concreta, quindi quando noi abbiamo bisogno di tirare fuori quello che abbiamo dentro e sentire qualcuno lo condivida, lo facciamo attraverso la dimensione social. Fra un istante poi sentiamo Andrea Barchesi cosa anche lui ha da aggiungere rispetto a quello che dice la nostra ascoltatrice. Allora, con chi voi condividete il vostro malessere attraverso le forme non tradizionali? E cosa pensate di chi in realtà condivide questo malessere? Perché c'è anche una versione moralista che dice: ma no, il dolore è una cosa personale, non va ostentato, è pura ostentazione, è una forma di lussuria della propria malattia, del proprio malessere, e si vuole richiamare pietà attorno a sé. Siete convinti sia così? Abbiate il coraggio di dirlo. 800 24 00 24, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Melog, cronache meridiane. Conoscenza e potere, chiude così l'accorata lettera editoriale che Angelina Jolie ha voluto pubblicare sul New York Times, e queste parole possono aiutare a comprendere come mai l'attrice abbia sentito l'irrefrenabile esigenza di condividere con il mondo intero scelte così intime riguardanti la sua salute. Dopo la doppia mastectomia subita nel 2013, ora la Jolie spiega di essersi sottoposta alla rimozione delle ovaie e delle tube di Falloppio. Il motivo è il solito: la presenza di un gene che la rende più predisposta ad un cancro al seno e all'ovaio. Certo, sullo smontaggio pubblico degli organi interni di Angelina Jolie ci sarebbe tanto da dire. Comunque sia, è esattamente una maniera corrispondente a quello che noi stiamo dicendo. Il turbamento patologico, la malattia, la disabilità, il problema improvviso in famiglia di salute non diventa più qualcosa da nascondere, ma qualcosa da condividere. In fondo, nella condivisione con altri esseri umani abbiamo sempre trovato l'elaborazione e il conforto del nostro errore. Oggi esiste la social condivisione, esiste sia a livello di persona comune sia a livello di persona baciata alla notorietà. Leggo qualche messaggio. Mi scrive Clotilde, pensa che i personaggi pubblici sono quasi obbligati a rendere conto delle loro malattie e quelle dei loro familiari, perché altrimenti sarebbero stanati dagli organi di informazione, dal gossip. Personalmente, dice Nena, detesta quando la gente mette tutti i mali sui social, però ha notato che per loro è davvero catartico. Nel caso di persone famose, invece, possono aiutare chi ha lo stesso problema, chiamando l'attenzione, la ricerca, su quelle sono malattie importanti. Poi niente, il solito amico, lo dico perché così per un momento di facezze, dice Nicoletti, perché non condividi il tuo problema? La ricchionaggine che ti perseguita da sempre ti perseguiterà toujours. Questo è un amico che chiama tutti i giorni, amico, un ascoltatore che chiama tutti i giorni. Un giorno lo chiamerò io al telefono, per, insistendo sul fatto che dovrei parlare della mia ricchionaggine che mi perseguita, magari fosse quello il problema, fare a cambio con gli altri che, da cui mi sento abbastanza perseguitato. Sentiamo Federica velocemente. Federica. Buongiorno, sono Federica. Sì. Allora, io ho provato a mettere su WhatsApp il mio dolore che avevo in quel momento. Su WhatsApp con quante persone però lo condivideva? Come? Su WhatsApp soltanto con le persone che, diciamo, la leggono. Sì, esatto, però abbiamo un grosso gruppo di tutti i 65 anni, quindi una questione di 80 persone che seguivano. Mm. Quindi il dolore viene recepito subito da chi ti vuole rispondere, va bene. In quel momento lì, un minuto ti dicono, ah sai, ci siamo vicini e tutto ti condividono il tuo dolore. Però dura un attimo. Nel giro di un minuto tutto poi svanisce. Ci andiamo a fare una pizza, andiamo a farci una birretta, è già finito. Federica, normalmente accade così anche quando lo raccontiamo a un vicino di treno o a un collega d'ufficio. Ci sta a ascoltare, c'è una pacca sulla spalla, la sua vita ricomincia, questo è abbastanza normale. Francesca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io ho mia madre con la malattia di Alzheimer. E per me condividere su Facebook è stata una ricchezza enorme, perché ho trovato persone che hanno lo stesso problema. Ora, io credo che la condivisione possa essere rischiosa, perché mettere in contatto ragazze anoressiche, per esempio, può creare qualche problema. Sì, i gruppi Proana e Promia hanno creato problemi, certo, perché si scambiano le ricettine per alimentare il loro problema. Quello è chiaro, sì, è un altro, certo, problema. Invece nel nostro caso è stato fantastico. Però sono gruppi chiusi, quelli molto, non sono gruppi aperti. Si scambiano le ricette per convivere in quella che è una sorta di culto, di religione per loro. Certo, nel mio caso è stato un grande vantaggio, perché io ho cominciato a condividere intanto raccontando che cosa provavo io e con la sensazione che qualcuno potesse far tesoro di quello che stavo attraversando. Poi ho scoperto una pagina che ha creato un ragazzo che si chiama Andrea, che io non ringrazierò mai abbastanza, si chiama Gruppo Alzheimer Tolentino. In questa pagina ci sono tutti i familiari, persone che hanno in casa o che hanno in casa di riposo, perché bisogna cominciare a parlare di quello, e persone con questa malattia. Quindi diventa uno scambio di informazioni, quasi è un meccanismo di utilità, non soltanto di elaborazione. Certo, io ho scoperto così una casa di riposo, per esempio, dove questi malati sono lasciati liberi finalmente, quindi non servono sedazioni, non servono contenzioni, e per me è stata una ricchezza enorme, perché quando arriva al punto in cui non ce la fa più, scoprire dei posti così è una cosa che veramente permette di continuare a vivere in un altro modo. Su questa pagina c'è stata una discussione interessante due giorni fa, perché una persona ha pubblicato un video con il padre che ha una crisi, queste crisi di angoscia, di aggressività che hanno, e si è creata una bellissima discussione, secondo me, sul fatto di rendere pubblico o meno delle immagini così. Chiaro che uno che ha in casa un malato così capisce questo dolore, lo condivide per certi versi, appoggia questa persona, magari manda un messaggio, chi non l'ha mai visto resta probabilmente sorpreso, magari anche indifferente. Però mentre la televisione, i giornali non arrivavano da nessuna parte, Facebook mi permette di arrivare dove voglio. Facebook è come tutto quello che... Lei ha toccato un punto interessante, Francesca. Rivolgo la riflessione a Andrea Barchesi, ricordo che è fondatore di Reputation Manager, che è una società che si occupa di curare l'immagine attraverso la rete di aziende, di personaggi, insomma tutto ciò che accade di noi in rete in qualche maniera può essere anche seguito, non può essere lasciato a se stesso. Barchesi, quest'ultima telefonata ci fa capire un altro aspetto della vicenda. Oltre all'aspetto emotivo della condivisione, quindi dell'elaborazione, c'è un aspetto utile, di strumento di utilità sociale nel far abbattere questa barriera fra privato e pubblico riguardo aspetti dolorosi della vita. Assolutamente. Osserviamo come la rete sociale è una rete collettiva, una somma di intelligenze, di conseguenza quindi si nasce per un'esigenza, tra virgolette, di condivisione, di catarsi, di superamento del dolore, di ripartizione del dolore con gli altri, si arriva anche a delle funzioni di utilità, di scambio di informazioni, di crescita, di anche supporto psicologico, quindi in realtà è un fenomeno in grande evoluzione di cui ancora secondo me abbiamo visto solo l'inizio, solo lo scratch. Diciamo, l'argine ormai è stato rotto, è caduto quel muro di pudicizia rispetto il dolore da conservare nell'ambito stretto delle conoscenze e delle amicizie, e adesso può accadere di tutto. Le faccio altri esempi, però l'ascoltatrice ha posto un esempio fondamentale. Una volta che uno degli associati al gruppo mostra la foto del padre in crisi, si apre il dibattito. A me è accaduta una cosa simile. Una madre mi mandò delle foto di lei scalpata da un figlio che gli ha strappato i capelli durante una crisi, e si aprì il dibattito: è giusto o non giusto vedere queste cose? Si getta uno stigma sulla patologia, sulla malattia, sulla diversità. E anche qui entra in gioco la necessità di tradurre attraverso il linguaggio social quello che appunto è l'emozione. DJ Fabo avrebbe avuto lo stesso effetto se non avesse messo quel suo racconto con la voce rotta, interrotta, quasi fatta di singulti, se non ci fossero stati i primi piani, il profilo drammatico della sua bocca spalancata, che è la stessa che avrà poi pigiato il pulsante che gli ha dato la morte che lui aveva richiesto, il suo corpo tatuato, una volta simbolo comunque di musica, di trasgressione, di vivacità, di gioia di vivere, diventa simbolo immoto e immobile di morte. Ecco, a questo punto bisogna cominciare a stabilire un linguaggio, non cinicamente, ma necessariamente. Può accadere, ma è molto complicato perché non ci sono delle regole e probabilmente troveremo tutti assieme qual è un po' l'etichetta di comunicazione tra noi. Passeremo per errori, passeremo per situazioni complicate che turberanno sicuramente, diciamo, l'opinione pubblica, e su questo dobbiamo essere preparati. Siamo tutti sperimentatori in questo campo, è inutile negarselo. Sì. Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo, la mia esperienza è di uno che non frequenta tantissimo i social, quasi per niente. Dal di fuori a me sembra che l'evoluzione sia stata che prima non si pubblicava quasi niente, poi si è cominciato a pubblicare le ricette, poi qualche foto, poi ci sono stati i casi del bullismo e così, e ora c'è quella nuova tendenza qua. Non vorrei che l'abitudine nell'usare i social porta a cancellare quel limite che magari non so, avremmo più pudicizia se non li frequentassimo così tanto. Diventa una cosa normale di tutti i giorni, perciò... C'è la sua paura, Paolo, che si banalizzi anche la sofferenza. A questo punto ecco, vince chi è più bravo a farsi il video in cui sembri più sofferente. Sì, una sorta di farsi impietosire, di non lo so. Ma più che impietosire qua nessuno cerca... allora, il social ha una funzione assolutamente nuova nella storia dell'umanità. Da ognuno la dignità di esistenza. Ognuno di noi ha una sua vita che comunque è sotto osservazione degli altri, cosa che non accadeva fino a 5-6 anni fa. Se di te non parlava un giornale, non ti veniva a prendere la televisione, non avevi modo comunque di richiamare attenzione su di te, nessuno ti calcolava. Oggi con il tuo profilo, se sei bravo comunque a creare degli elementi d'attrazione, cominci a esistere. Intorno delle persone che non conosci si accorgono della tua esistenza. Qui lei pone un problema molto interessante. Diventa questione di metodo. Chi è più bravo anche a rappresentare il proprio dolore ha più conforto e quindi più attenzione. Oppure a un certo punto si stabilirà una maniera che diventa normale, diventi tranquillo, mostrare anche aspetti privati della sua vita. Cambierà il concetto del privato. Su questo ci risentiamo tra un istante. 800240024. Cosa pensate di chi condivide il proprio dolore? L'avete mai fatto voi? Avete avuto mai occasione di condividere attraverso i social dei momenti particolarmente difficili e dolorosi della vostra vita? A tra poco. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024, leggo qualche sms. Compatire è somma ipocrisia. Come può uno sano condividere la sofferenza fisica? Non si condivide la sofferenza fisica. L'empatia significa entrare in sintonia con la sofferenza di un altro essere umano, non compatendolo, non dicendo poveraccio, ma cercare di trasferire su di sé un attimo, per quanto è possibile. Siamo esseri umani, non possiamo, nessuno di noi ha la vocazione dell'eroe, del santo, del martire, nessuno si sente forzatamente Madre Teresa da Calcutta, che poi fra l'altro aveva la sua concezione molto particolare del dolore, era quasi una catarsi necessaria, e quindi i suoi malati più soffrivano e più erano vicini a Dio. Ma questa è un'altra parentesi. Non mi resta che piangere, mi dice un'ascoltatrice, non capisco perché esattamente. Un altro ascoltatore dice: virtuale è per sua natura inconsistente, realtà virtuale è una contraddizione in termini, la condivisione di un dolore con sconosciuti in una dimensione astratta come un social network è un'illusione, un post su Facebook non genera un sentimento reale, rimane una semplice sequenza di parole, il dolore e la solitudine restano purtroppo reali. Non è vero, è un atteggiamento molto antico, molto passato. La parola virtuale non ha nessun senso, non è una condivisione virtuale, non c'è niente virtuale, è una condizione indiretta, incorporea, attraverso dei meccanismi che riallacciano le nostre capacità emotive di entrare in condivisione con un altro. Esattamente la stessa cosa. Non credo che le veglie di fronte a un malato fatte da persone così, che andavano semplicemente per rendere un obbligo sociale, avessero più senso di quelli che realmente ogni giorno si preoccupano e seguono e partecipano alle vicende di una persona. Patrizia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io premetto che faccio un uso piuttosto limitato dei social e li uso soprattutto come fonte informativa, come la signora che parlava della malattia di Alzheimer, cioè quando mi serve andare a scoprire determinate situazioni. Però io... È la sua enciclopedia medica. Come? È la sua enciclopedia medica, diciamo. Ma non solo medica, per l'amor del cielo, ci sono molte altre cose che vado a scandagliare. Però quando è il momento del dolore, che io ho provato in prima persona, essendo stata affetta da un tumore che per adesso è lontano, ho percepito, cioè io non ho condiviso il dolore sul mio dolore, la mia disperazione per la malattia. Però lo ha raccontato nei social? Non l'ho raccontata perché non mi sento assolutamente di mettere il mio dolore addosso delle persone che in fondo non so neanche chi sono, perché parliamoci chiaro, noi li chiamiamo amici, quelli di Facebook, ma amici un cavolo, gli amici veri sono pochissimi e sono quelli dagli che... Dagli amici veri ho imparato a guardarmi con attenzione, scusi. Ma poi io devo dire che nella malattia ho visto chi erano... Erano veramente le persone che a me tenevano. E quindi e poi le dico una cosa. Ma lei cosa cercava? Scusi, cattiva. Patrizia, no, vado solo per capire, perché oggi la trasmissione in realtà è su chi condivide questo tipo di problema. Sono in molti. Lei dice: io non lo faccio perché faccio una distinzione tra le persone che concretamente mi dimostrano ogni giorno vicinanza e comunione, che sono gli amici veri. Questo è più che accettabile. Un'altra cosa? Sì, prego. Sa che sarà cinica, ma sa che quante volte io ho percepito una sensazione come di che la gente pensasse: oh, come mi dispiace per te. Beh, sì, però in fondo meglio a te che a me. Guardi, veramente. Questo si percepisce anche onestamente nelle corsie d'ospedale. Tendevo a tenere un po' le mie cose con le persone care, con le persone a cui volevo bene, insomma, e che mi vogliono bene. Lei teme un effetto classico, siccome tutti noi pensiamo che in realtà la malattia, la sofferenza sia come un bene limitato, distribuito fra l'umanità, dice se ne prende un pezzo lui, me ne toccherà un pezzo in meno a me, questo è il fatto. Comunque quando sei malato tu sei una parte del mondo, cioè capisci che il mondo è dei sani e ti senti già in una posizione completamente, sei spiazzato e quasi quei sani... non so, hai invidia di loro, tu non sei malato, tu non puoi capire cosa provo io e non lo so, e quindi io sono dei vecchi modo di tenermi un po' le cose. Sì, però questa è la stessa esatta sensazione che si prova quando si passa in automobile felici, contenti, magari se è un appuntamento, una festa, e si passa davanti a un ospedale. Là fuori è un edificio come un altro, beh, a volte anche bello, con le palme, con i fiori, con dei bei giardini. Se uno solo varca quella soglia si accorge che entra in un'altra dimensione totalmente. Vedere il mondo fuori da dentro cambia completamente il mondo. Certo, cambia prospettiva totalmente. Va bene, Patrizia. Patrizia è della parte dell'umanità che in realtà non sente questa necessità, non sente questo bisogno. Mi sembra che se dovessi fare una sorta di pesatura, di sintesi su quello che finora mi è arrivato dal pubblico, posso sintetizzarlo sul fatto che è radicalmente ancora legato al mondo tradizionale, ai rapporti concreti, ai rapporti basati sulla frequentazione fisica con le persone, considera questa una sorta di forma accessoria, superflua, deleteria, non profonda di condivisione. Chi invece è un frequentatore un pochino meno consapevole in quanto naturale frequentatore, quindi le persone che hanno una circostanza anagrafica inferiore come ragazzo di 21 anni, per loro è normale, la cosa più normale del mondo. Hai un dolore in famiglia, anche una madre sofferente, lo condividi con gli amici, senti le persone cosa ti dicono. E amici è un termine che sta cambiando assolutamente accezione nel tempo. L'amico è una parola quasi sacra. L'amico è quello che non ti tradisce mai, l'amico è quello che ti porti dietro tutta la vita. Poi ognuno di noi sa quante sfaccettature e quante delusioni sono dietro questo termine. Meglio la parola amico generica, indifferenziata, che amico e persona che ti segue sul social, almeno hai anche meno sorprese. Maddalena, buongiorno. Sì, buongiorno. Io niente, volevo semplicemente dare la mia esperienza per quanto riguarda appunto questo tema. E nonostante io sia contraria all'utilizzo medio che viene fatto dei social network, posso dire che io ho perso mia mamma 2 anni fa e utilizzo, diciamo, momenti di le date, le ricorrenze, per esempio il suo compleanno, quello che sarebbe il suo compleanno, piuttosto che la data della sua scomparsa, per pubblicare delle foto di mia mamma e più che altro per mantenere la memoria e il ricordo di lei anche in quelle persone che probabilmente non ci pensano più costantemente o non hanno più a che fare con lei. Questo lo fanno in molti, io l'ho notato che per l'anniversario della scomparsa soprattutto di un genitore ma anche di una persona cara rimettono le foto o mettono una frase di ricordo. E questo, diciamo, che tipo di possibilità dà di elaborare comunque un dolore o di sentirsi le persone attorno rispetto, non lo so, alle telefonate che si possono ricevere, che sono molto rare oggi. Chi mi è più telefona un amico, mi ricordo che era morto qualcuno a Tecaro 1 anno fa, 2 anni fa, se non ci fosse il calendario di Facebook a ricordarlo. Ecco, che tipo di sensazione dà invece questo tipo di attenzione che per molti è solo superficiale? Guardi, io le posso dire che per me già solo il gesto di pubblicare una foto di mia mamma con una frase commemorativa, già solo questo in sé mi è sufficiente, perché so già che tutte le persone che lo vedranno, che sono comunque miei amici o miei parenti, avranno un momento di riflessione appunto su mia madre. Sa, per un secolo e oltre abbiamo pubblicato il necrologio, abbiamo pubblicato il ricordo con la foto, la famiglia Pinco Pallo ricorda il nonno scomparso a distanza di un anno, una fotina in bianco e nero con una crocetta sopra, 4 frasi, serviva solo il fatto che comunque ci sentivamo appagati nel fatto che nella pagina cittadina apparisse la foto del nonno. Oggi è molto più semplice e molto più condivisibile. C'era Cesare, dice che è assurdo condividere i dolori, e beh, se li tenga per sé i suoi. Noi cerchiamo per quanto possibile di spartirli anche con il resto del mondo, perché questo significa anche far parte dell'umanità. Alla prossima.